Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quaro, sono Salvatore e con me c'è Ivan, che saluto. Ciao Ivan. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Con Ivan nei giorni scorsi abbiamo deciso di iniziare una serie di approfondimenti sulle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, ovviamente andando ad analizzare criticamente lo scempio ambientale e sociale che si sta compiendo. E in questa prima puntata il nostro ospite è Gigi Casanova, ambientalista da sempre, autore di libri come Avere cura della montagna, L'Italia si salva dalla cima, l'ambientalismo del SIE e le sue proposte, e Ombre sulla neve, il libro bianco delle Olimpiadi invernali pubblicato nel 2022. Io saluto e ringrazio Gigi. Ciao Gigi. Bene, saluti a tutti e anche agli ascoltatori. Gigi, il tuo libro, come dicevo prima, che è pubblicato nel 2022, Ombre sulla neve, ci offre un quadro molto accurato su tutto quello che è successo dal 2019 fino alla sua pubblicazione. Ma alla luce di quello che, diciamo, sta accadendo e che è accaduto in quest'ultimo periodo, ci aggiorni sulla situazione? Ecco, allora diciamo che purtroppo quel libro ha anticipato quello che è accaduto. Magari fosse stato diverso e avessi sbagliato tutta l'analisi lì presente. Eravamo in presenza nel 2019, quando l'Italia ha vinto la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026. Di un dossier di candidatura estremamente serio che offriva a tutta la nostra collettività e al mondo sportivo degli obiettivi ben precisi all'interno dei quali si doveva svolgere l'evento olimpico. Quali sono questi obiettivi? Il primo è fondamentale: Olimpiadi a costo zero. Bene, già allora i ministri dicevano non un soldo dallo Stato. Bene, oggi le spese infrastrutturali previste per le Olimpiadi, parliamo del decreto ministeriale dell'8 settembre 2023 della Presidente Giorgia Meloni, illustra cifre di spesa di 3 miliardi e 600 milioni. A questa spesa vanno aggiunti 1 miliardo e 600 milioni che sarà speso dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Quindi ormai stiamo viaggiando in prossimità di una spesa complessiva sui 6 miliardi di euro. Quindi l'obiettivo Olimpiadi a costo zero è fallito. C'è un altro obiettivo importante, specialmente per chi ha a cuore gli ambienti dell'alta montagna o la qualità del vivere a Milano. Parliamo della sostenibilità. In 127 pagine del dossier di candidatura, la parola sostenibilità è affermata 92 volte. Bene, per indicare se un evento è sostenibile o meno, c'è bisogno di una misura, di un qualcosa che quantifichi. E qual è lo strumento che l'Unione Europea e poi lo Stato italiano aveva preso come strumento di misura? La valutazione ambientale strategica. All'interno del dossier di candidatura, fin dall'inizio si fa riferimento a questo fatto. Tutte le opere olimpiche nel loro insieme a livello nazionale devono essere sottoposte a valutazione ambientale strategica. Questo non è stato fatto e allora ha privato noi cittadini, associazioni e istituzioni di uno strumento per misurare se veramente l'evento olimpico del febbraio 2026 sarà sostenibile o meno. Senza dilungarmi ancora, c'è un altro obiettivo strategico definito nel dossier di candidatura ed è quello della legacy, cioè queste opere cosa lasceranno alle generazioni future o cosa troveranno gli abitanti delle vallate dolomitiche o della Valtellina di concreto che porti un superamento del disagio, ad esempio dello spopolamento delle aree montane, penso alla Valtellina o al Cadore. Bene, dobbiamo purtroppo dire che al di là di qualche circonvallazione, al di là del villaggio olimpico di Milano, che poi diventerà uno studentato, al di là della tratta ferroviaria Bressanone-Val di Riga verso la Val Pusteria, noi come ambientalisti riteniamo che nessun'altra opera, sono 94 le opere olimpiche, bene, nessun'altra opera rientri in un progetto di legacy e quindi di proiezione, di gestione positiva nel futuro. Ecco, questa è la cornice ampia, insomma, di quello che stiamo rilevando a un anno dalle Olimpiadi. Sì, Gigi, io volevo chiederti questo, al di là dei grandi slogan appunto degli organizzatori, quindi costo zero, sostenibilità e allargando un po' il focus, è possibile secondo te attuare un grande evento come questo in maniera sostenibile? La Francia nel 2030 si sta già preparando per le Olimpiadi, come si sta organizzando? Ecco, facciamo subito un paragone con la Francia. La Francia per il 2030 non dispone di un palazzo dello sport adeguato ad ospitare le gare di pattinaggio veloce e di velocità. E allora cosa ha già fatto la Francia? Ha chiesto a Torino di poter utilizzare l'oval che era stato utilizzato per le Olimpiadi del 2006. Un'altra situazione. Sempre la Francia si rende conto che costruire una pista di bob sul loro territorio con le caratteristiche di questo sport talmente pregnanti, talmente impegnative anche dal punto di vista della sicurezza, non è possibile. La Francia non vuole gettare al vento decine e decine di milioni di euro. E allora cosa sta facendo la Francia? Sta chiedendo ad altre località della Germania o dell'Austria di poter utilizzare le loro strutture per gli sport dello scivolamento, slittino, bob, skeleton. Ecco, in Italia probabilmente permeati da uno spirito nazionalista eccessivo, non siamo riusciti a fare questo. Eppure avevamo soluzioni anche vicine ai nostri territori. Pensiamo alla pista di bob. Da un costo iniziale stimato in 63 milioni di euro a fine 2022 si era già invece arrivati a 102 milioni spesi e stiamo parlando di intervento di adeguamento della pista di bob e slittino di Cortina, e quindi alla faccia del costo zero. Quindi esistono dati poi aggiornati sul costo reale di questa operazione e sui costi poi di manutenzione futuri della pista e soprattutto qual è il costo di queste Olimpiadi ad oggi? Beh, partiamo dall'ultima domanda. Il costo delle Olimpiadi, l'ho riferito in introduzione, siamo prossimi ai 6 miliardi. Andiamo alla pista di bob, che non è comunque la struttura più impattante fra tutte quelle che saranno costruite. È stata quella che ha creato scandalo. Siamo partiti dal dossier di candidatura con 46,7 milioni di euro previsti di spesa e si parlava di ristrutturazione. Nel 2021 siamo passati a 61 milioni, nel tardo autunno siamo passati a 85, oggi siamo a 124 milioni di euro di spesa. E al di là della spesa, non si tratta di una ristrutturazione. Tutta la vecchia pista del 1956 delle storiche Olimpiadi di Cortina è stata distrutta. Abbiamo distrutto un bosco di larici monospecifico secolare. Abbiamo distrutto un parco giochi che era l'angolo del respiro del turismo estivo di Cortina d'Ampezzo, e la pista, che sicuramente sarà ultimata nei tempi utili per l'evento olimpico, ad oggi costa 124 milioni. Se in questo momento i dirigenti di Simico, cioè della società che ha appaltato tutte 94 le opere olimpiche, mi sente, dice: eh no, signor Casanova, non racconti balle, perché la pista olimpica l'abbiamo appaltata per 81 milioni di euro. Questo è vero, però è un progetto leggero dal quale sono stati tolte una serie innumerevoli di opere e che saranno aggiunte successivamente dopo l'evento olimpico. Non solo. Ad oggi nessuno sa qual è il costo reale della pista di Bob, della gestione successiva. Le cifre più probabili parlano di 1.400.000 euro all'anno, ma non si è ancora deciso chi pagherà questi costi di gestione. Sicuramente il comune di Cortina non è in grado di sostenere una spesa del genere. È un comune di 5.600 abitanti, niente in tutto. Sicuramente la Regione Veneto non vuole farsi carico della spesa. E nel 2019 era stato fatto il tentativo di far pagare la gestione alle province autonome di Trento e Bolzano. Poi in corso d'opera ci si è resi conto che con i fondi di confine delle due province autonome non è possibile pagare gestione di infrastrutture, ma questi soldi si possono investire solo però per opere strutturali nuove. Quindi ad oggi nessuno sa chi pagherà le spese di gestione della pista di Bob. Come vi dicevo, stiamo parlando solo di un caso di tutte le opere olimpiche, perché è quello che ha fatto più scalpore. Bastava andare ad Innsbruck e il problema era risolto. Pagavamo 10 milioni, forse 12 milioni di affitto, e tutti questi problemi che ho elencato sarebbero stati risolti. Sì, rimaniamo a Cortina, la quale sta già pagando in termini di impatto ambientale i recenti mondiali di sci. Quale sarà la percentuale di territorio che ancora verrà sacrificata nel nome delle Olimpiadi a basso impatto ambientale? E quante sono state stravolte e deturpate le montagne dove si svolgeranno le Olimpiadi? Bene, fin dai mondiali di sci alpino del 2021, la montagna della Tofana era stata stravolta dalle nuove piste di sci e dall'imposizione di collegamenti e di dell'innevamento artificiale potenziato. Tutto questo sarà rimesso ancora in discussione per l'evento olimpico prossimo. Ma il problema a Cortina non è quello solo della pista di Bob o dell'ampliamento dell'area sciabile verso le Tofane. L'opera più impattante che si prospetta e verrà appaltata prossimamente a Cortina d'Ampezzo è la tangenziale. Non spaventatevi per la cifra, 480 milioni di euro di spesa prevista. Praticamente si parte da sud di Cortina e si dovrebbe in teoria uscire verso la Tofana, verso Fiames. Perché è un'opera devastante? Perché attraverserà, qualora realizzata, delle zone ad altissimo rischio idrogeologico e alluvionale. Un'altra opera, un collegamento sciistico definito di Socrepes, che non riesce ad ottenere le autorizzazioni dagli uffici regionali del Veneto. perché anche questo verrebbe costruito addirittura su una frana in movimento, quindi porta a problemi geologici e di sicurezza fondamentali per l'abitato di Cortina, e oltretutto questo collegamento avrà poi dei costi di gestione incredibili. Anche in questo caso non sapremo chi li paga. Complessivamente, su Cortina d'Ampezzo sono previsti per l'evento olimpico una ricaduta di 880 milioni di euro fra un'opera e l'altra. Quindi quel poco che rimaneva di naturalità della cittadina dolomitica praticamente sarà stravolto, e fra 3-4 anni, ad opere finite, Cortina sarà irriconoscibile. No, volevo solo fare un appunto, perché parliamo di Cortina, ma queste opere andranno poi a danneggiare anche tutti i paesi attorno, tutto il comprensorio che sta attorno a Cortina, ovviamente. Ecco, le opere però dei paesi attorno, parliamo la tangenziale di San Vito di Cadore, la tangenziale di Itai di Cadore o la circonvallazione di Longarone, erano previste in funzione dei mondiali di sci alpino del 2021. Alcune di queste opere sono iniziate, penso alla tangenziale di San Vito di Cadore, anche qui una devastazione paesaggistica, siamo andati a sconvolgere l'ultima area aprativa naturale di San Vito di Cadore, oltre a portare una viabilità all'interno di un'area ad elevato rischio idraulico, quindi di alluvioni. Mentre per la tangenziale di Venasso, quella di Itai di Cadore, anche noi siamo, come ambientalisti, siamo favorevoli alla loro realizzazione, perché queste due tangenziali vanno a risolvere problemi storici dell'attraversamento dei due abitati. La tangenziale di Longarone, anche questa costosissima, parliamo di 430 milioni di euro, ha solo una funzione di velocizzazione dei transiti, specialmente per il turismo, verso Cortina d'Ampezzo, ma sarà una tangenziale dal punto di vista paesaggistico e della sicurezza idraulica estremamente problematica. Infatti, da diversi mesi continuano a cambiare i progetti e ancora non siamo in presenza di un progetto esecutivo. Teniamo presente che doveva essere realizzata in funzione dei mondiali del 2021, siamo al 2025, le ultime indicazioni che provengono da Simico danno la conclusione dell'opera per il 2030. Ecco, questo è un pessimo vizio italiano. Prendiamo i grandi eventi sportivi o i grandi eventi internazionali e all'interno di questi di questo evento lo sovraccarichiamo di infrastrutture che non eravamo riusciti a costruire con i tempi e con le procedure corrette. Infatti i grandi eventi hanno sempre una diciamo finalità politica ben precisa, no? No. Simico se n'è avuta male per un documento proposto da Libera, coadiuvata da tutto l'associazionismo ambientalista nazionale, che denunciava il fatto che ancora la trasparenza sugli appalti e sulla costruzione di queste opere sia inadeguato. Si sono inalberati, ci hanno addirittura minacciato di intervenire attraverso altre vie, quindi quasi un'azione intimidatoria nei nostri confronti da parte di Simico, però anche questa reazione così aggressiva dimostra che la trasparenza attorno a queste opere è veramente minima. Pensate che come associazione ambientalista il 3 luglio 2024 in una riunione con Simico proprio io mi ero permesso di illustrare quattro brevi domande da inserire all'interno del poster della trasparenza delle opere olimpiche. Bene, erano domande che riguardavano le compatibilità ambientali di tutte le opere delle quali stiamo discutendo. Bene, sono stato aggredito verbalmente, ovviamente, dalla presidente della fondazione e praticamente sono stato zittito. Qual è la risposta della presidente della fondazione? Queste domande sulla compatibilità ambientale o meno non spettano a noi come Simico, ma spettano al governo. Quindi ancora una volta il vizio italiano di scaricare su altre istituzioni responsabilità che sono proprie. Ecco, in tutte le opere olimpiche sono mancati i processi partecipativi, quindi è mancata la trasparenza territorio per territorio nel preparare questi eventi o anche nell'accettare eventuali modifiche. Insomma, vi ho solo accennato alle questioni idrauliche, alle questioni della sicurezza. Non sono situazioni che possiamo trascurare. Diciamo che molte opere vengono fatte soprattutto per il turismo. Quanto il turismo in futuro, ma non solo per i giochi olimpici, è solo uno degli aspetti, diciamo, negativi, ma quanto invece impatterà a livello sociale? Ecco, l'impatto sociale è estremamente pesante, perché quello che accade già oggi a Cortina d'Ampezzo lo possiamo trasportare direttamente in Trentino, nel Sud Tirol e anche nella Valtellina. L'evento olimpico rende appetibili queste località, si sviluppa un'azione di marketing che praticamente porta ad un aumento consistente degli affitti per i lavoratori e per i residenti di questi abitati, porta a uno sfondamento di ogni equilibrio nell'acquisizione delle case, delle prime case per le famiglie porta ad un aumento dei costi insostenibili per la maggioranza dei cittadini che vive di stipendi normali. Pensiamo che, parlo del Trentino dove io vivo, chi vuole affittare un appartamento nei 10 giorni delle Olimpiadi in Valle di Fiemme trova già gli affitti andati, parliamo di 10 giorni, dagli 8.000 ai 12.000 euro. La stessa cosa sta accadendo a Bormio, immaginiamoci a Cortina d'Ampezzo cosa sta accadendo. E in un incontro con il presidente Zaia nel dicembre 2022, quando ancora ritenevamo possibile non costruire la pista di Bob e andare a fare le gare di scivolamento ad Innsbruck, il presidente della Regione Veneto ci ha detto: ma voi bellunesi dovete ringraziare la pista di Bob, perché sul bellunese, grazie alle Olimpiadi, cadranno 1,2 miliardi di euro di investimenti. Abbiamo fatto presente al presidente Zaia che questo 1,2 miliardi, oggi sono già 1,5 miliardi, ma lasciamo perdere, non è una sottigliezza, ma lasciamola perdere. Questo 1,2 miliardi sarebbero caduti nel bellunese solo dal tratto da Longarone a Cortina d'Ampezzo. Chi conosce il bellunese, la montagna del bellunese, sa che i problemi del vivere, dello spopolamento, della fuga dei giovani, della mancanza di scolarità non sono concentrati nell'alta valle del Cadore verso Cortina. Quindi di questo 1,2 miliardi non un euro cadrà nel Basso Feltrino, nell'Agordino e nel Comelico. Quindi non è vero che le Olimpiadi sono un investimento per evitare lo spopolamento del bellunese. Per evitare lo spopolamento del bellunese dobbiamo attivare ben altre proposte molto molto meno costose e sicuramente più efficaci nel lungo periodo per la popolazione della provincia di Belluno. Quindi vuol dire che anche la montagna sta diventando, ma già forse da tempo lo è diventata, un qualcosa solo per i ricchi. C'è questo rischio di avere delle località, Cortina d'Ampezzo, Tre Cime di Lavaredo, che saranno località destinate solo a chi ha portafogli ampi, mentre avremo gran parte del territorio della montagna delle Alpi italiane, penso anche alla Valtellina, non solo al Bellunese, ma penso anche a località di una provincia che si ritiene ricca, come quella di Trento o quella di Bolzano, che invece troveranno acuiti i problemi dello spopolamento e della fuga dei giovani. Questa è una grande responsabilità della monocultura turistica. Se io vi dico che in provincia di Bolzano, nella ricca Bolzano, ogni anno 1.000 giovani scappano dalla provincia perché non trovano occupazione, qualcuno non ci crederà. Eppure, sta accadendo questo. Allora, il problema dello spopolamento non lo risolve il turismo. Il turismo è una componente importante. Io non mi permetterei mai di dire che dobbiamo rinnegare l'industria turistica. Anzi, è importante, ma va alimentata con grande equilibrio. Il problema dello spopolamento della montagna è che non siamo riusciti né in Alto Adige né nel Veneto a costruire dei progetti che invitino i nostri giovani e le famiglie a rimanere sul territorio e a gestire, a curare il territorio della montagna. Certo che è difficile un progetto di questo tipo. È un progetto che ha bisogno di condivisione, ha bisogno di rapporto con il mondo dell'agricoltura, ha bisogno di viabilità e di potenziamento dei servizi pubblici. Però questi sono i problemi veri della montagna italiana, non certo offrire le gare olimpiche o ad offrire le gare di Coppa del Mondo. Insomma, è su questo piano che non riusciamo a portare a discutere il mondo della politica, né di una componente di una parte e né dell'altra. Insomma, troviamo grande insensibilità e difatti come ci liquidano noi ambientalisti? Voi siete il partito del no, dite sempre no e quindi veniamo etichettati in questa maniera. Chi ci conosce realmente sa che non è assolutamente vero e che noi siamo ricchi di un capitale propositivo per lo sviluppo della montagna, solo che non veniamo ascoltati. È un grande problema della politica italiana. Sì, mi viene da fare una battuta perché non siete favorevoli all'ennesimo hotel a 5 stelle o all'ennesimo resort, probabilmente questa cosa dà fastidio, no? Sì, ma un albergo a 5 stelle, pensiamo a quello che doveva essere costruito a Passo Jau, a cosa serve? Una cattedrale nel deserto. E poi, una volta che ho costruito questi alberghi di lusso o che sviluppo altre offerte di lusso sulle alte quote, cosa mi rimane giù nei fondovalle dove la gente lavora? Parliamo degli insegnanti, parliamo dei postini, parliamo degli operatori sanitari. Questi qui, come possono con i loro stipendi pagare i costi che queste località offriranno? Quindi è inevitabile la fuga. L'investimento nel turismo di lusso non è la soluzione delle alte quote, è la soluzione per una ristretta categoria di cittadini che rimarrà sul territorio fino a quando questo territorio avrà ancora delle peculiarità ambientali e paesaggistiche di grande rilievo e non appena la situazione diventa di massa, pensiamo alle Tre Cime di Lavaredo, questo tipo di turismo scappa e va da un'altra parte, va in Canada, va altrove, insomma, cosa gliene frega a chi vuole serenità e tranquillità stare nel caos di una Cortina d'Ampezzo o di una Bormio, ma proprio nulla. Gigi, in apertura di questo collegamento tu hai nominato la VAS. seguendo il percorso che sta portando a compimento le opere, si ha l'impressione che alcuni ritardi siano stati in qualche modo voluti per poter bypassare norme che rischiavano di compromettere interessi privati. Una tra tante è proprio la VAS, ritenuta per legge strumento necessario per valutare il reale impatto ambientale e sociale di eventi come questo. Come lei, la domanda è questa, come si è riusciti a tenere fuori una VAS? Beh, innanzitutto ha aiutato il periodo del Covid, insomma, un anno e mezzo di inattività, del quale hanno goduto i progettisti e i promotori di tutte le opere olimpiche. A quel punto, per recuperare i ritardi accumulati, cosa ha scelto il mondo politico? Ha commissariato le opere. Il 60% delle opere olimpiche sono commissariate. Vi ho detto all'inizio che sono 94 queste opere. Bene, il commissario ha pieni poteri, ha potere di deroga e ha potere di scavalcare qualunque situazione. Al massimo arriviamo per determinate opere alla conferenza dei servizi, ma si tenga presente che quando si tiene una conferenza dei servizi, le associazioni che portano avanti l'interesse generale, come sono le associazioni ambientaliste, hanno solo 30 giorni di tempo per presentare delle osservazioni, che non è detto che vengano accolte, però 30 giorni per affrontare, ad esempio, una tangenziale complessa come quella di San Vito di Cadore, o per affrontare il collegamento di, sciistico da Cortina d'Ampezzo al Monte Civetta. Cioè sono progetti multidisciplinari, estremamente complessi, e associazioni di volontariato non possono sviluppare in soli 30 giorni un'azione di critica, di proposta tesa a migliorare queste opere. Ecco, il commissariamento di tutte le opere olimpiche ha impedito di affrontare le VAS e di affrontare tante valutazioni di impatto ambientale. Anche questo è un indice di scarsa trasparenza e sta a dimostrare il fallimento di tutti i contenuti inseriti nel dossier di candidatura del 2019. Senti Gigi, passando ad un altro argomento, cioè quanto il green marketing, utilizzando il greenwashing, scusami il gioco di parole, sta tappando le falle della finta ecosostenibilità di queste Olimpiadi? Come? Il sistema del mercato turistico prende termini chiaramente ambientalisti, green, sostenibilità, valorizzazione, e li stravolge nei contenuti e li porta addirittura a valori per sostenere operazioni di marketing. Quindi sono dei termini che ormai hanno perso completamente significato, perché non vengono tradotti in termini numerici. Cioè, per vedere la sostenibilità di un'opera o meno, io devo essere in grado di quantificare quanta CO2 produco nel costruirla, quanta CO2 ci sarà nel suo utilizzo, quanta acqua consumo, e se sono in grado o meno di riportare poi la risorsa idrica in modo naturale nel suo ambito. Valutare la sostenibilità o valorizzare un determinato territorio è estremamente complesso. Il cittadino, non è colpa del cittadino che diventa credulone davanti a questo insieme di marketing che gli crolla sulla testa. Il cittadino non ha la possibilità giorno per giorno di studiare nel dettaglio come si sviluppano queste operazioni. Quindi è molto facile con 4-5 slogan illudere tutti noi che un determinato evento è sostenibile, specialmente se passa attraverso una conferenza di servizi e la conferenza di servizi mi presenta 100 prescrizioni, però approva il progetto. Bene, è stato approvato, quindi è sostenibile. Nessuno va poi a vedere se quelle 100 prescrizioni saranno attuate in corso d'opera. Quest'ultima cosa che hai detto, entrano in gioco i media, la televisione, l'informazione, che in qualche modo, uso questo termine, si rende complice di questa informazione. Sì, all'interno di una parte del mondo giornalistico, non generalizziamo, insomma, però una buona parte del mondo giornalistico, specialmente quello delle grandi testate e delle TV private e pubbliche, non riesce più a fare inchiesta. Abbiamo report, per fortuna, abbiamo altre trasmissioni, ma facciamo una grande fatica anche noi ad intervenire in questi ambienti. Proprio il giornalismo ha perso la capacità del fare inchiesta. Ad esempio, io in questi 2-3 anni di attività nei quali sto seguendo giorno per giorno quello che succede attorno all'evento olimpico, trovo molto più ascolto nelle TV estere, vengo coinvolto dalla TV francese, dalla TV della Svezia, della Germania, dell'Austria, però questi mezzi di informazione fanno ancora inchiesta, non vengono ad ascoltare solo la voce critica di un portatore di interessi specifici ambientali come sottoscritto, ma ho visto i servizi vanno anche a coinvolgere i settori economici, quindi sono delle inchieste estremamente imparziali. In Italia non siamo più capaci di fare questo tipo di giornalismo. Anch'io sono un giornalista e sto parlando in maniera critica dei miei colleghi, insomma. Senti Gigi, esistono altri rischi per il paesaggio dolomitico legati ai giochi di Milano e Cortina? Se poi ci sono altri interventi altrettanto impattanti di quelli che già sono stati fatti e costosi che ancora devono essere intrapresi. Dal mio punto di vista, questo appuntamento olimpico rappresenta una sconfitta complessiva della cultura ambientalista e della cultura attenta al mondo sociale. So di stare usando parole pesanti. E abbiamo ancora poche situazioni sulle quali possiamo combattere e secondo me anche vincere. Pensiamo ai collegamenti sciistici da Cortina verso Badia, Cortina Rabba, Cortina Montecivetta. Pensiamo al collegamento sciistico da Bormio verso Livigno, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Pensiamo ad altri progetti di viabilità anche della Valtellina. Abbiamo situazioni nelle quali possiamo ancora intervenire ed essere incisivi. Però quando il 14 settembre del 2023 tutti assieme le grandi associazioni ambientaliste italiane si sono ritirate dal confronto con la Fondazione Dolomiti UNESCO, no, con la Fondazione Dolomiti Milano Cortina 2026, ecco, quello è stato il segnale della sconfitta e della perdita di una grande battaglia che poteva essere vinta. Perché abbiamo perso? Abbiamo perso non certo per incapacità dei dirigenti delle grandi associazioni ambientaliste, anzi hanno avuto pazienza, magari il più impaziente fra tutti ero io, hanno avuto capacità propositiva. Abbiamo perso perché avevamo davanti un muro impenetrabile di interessi privati, sia all'interno del cuore della città di Milano che all'interno delle Dolomiti. Ecco, questo, questo muro, questa mancanza di trasparenza ha portato, io lo dico ormai chiaramente, al fallimento della sostenibilità dell'evento olimpico 2026. Vi ho già accennato all'inizio e come invece in Francia si stia già cercando di operare in maniera diversa per non ripetere gli errori di Torino 2006 e di Milano Cortina 2026. Sì, Gigi, io ti ringrazio di questo tuo intervento. E per terminare, proprio visto che hai citato Torino 2006, ti chiedo questo. A distanza di 20 anni possiamo dire con certezza che le Olimpiadi di Torino non hanno avuto un lieto fine per il Piemonte. Tra debito pubblico e stato di abbandono delle strutture olimpiche, insomma, sappiamo com'è andata a finire. Che futuro si può prevedere per i territori che ospiteranno tra meno di un anno i Giochi Olimpici? Senza dubbio tutte le grandi infrastrutture di Torino sono fallite, perfino i villaggi olimpici che sono diventati un ricettacolo del mondo della migrazione, no? Non per colpa degli immigrati ovviamente, ma sono stati abbandonati dall'ente pubblico e tutte le grandi opere sono state abbandonate. A Torino abbiamo però lasciato la rinascita di una città che è stata riqualificata nel suo insieme. Questo è l'aspetto positivo delle Olimpiadi 2006 di Torino. Riguardo il nostro appuntamento, non la vedo così felice, perché anche all'interno della città di Milano stiamo assistendo a speculazioni di carattere privatistico, insomma alla svendita di grandi areali pubblici come lo scalo romano delle ferrovie, come la zona del palasport di Assago e come l'area dell'ex fiera 2015 a Rho. E qui nelle Dolomiti sicuramente avremo un grande veicolo di marketing, un veicolo pubblicitario che durerà per anni, ma tutto andrà a scapito della gente comune, dei lavoratori e andremo ancora una volta a favorire i soliti noti. Non penso che le Olimpiadi 2026 porteranno grandi vantaggi né a Bormio né a Cortina d'Ampezzo e quindi per nulla al Cadore, anzi probabilmente diventeranno un incentivo ulteriore per i nostri giovani a fuggire dalle nostre vallate. Un quadro amaro quello che lascio, ma la percezione che raccolgo anche dalle testimonianze dei miei amici in Cadore o in Alto Adige, insomma, sono queste. Fare solo una considerazione e poi magari chiudiamo e salutiamo Gigi. Volevo comunque dire che forse erano tranquillamente evitabili queste Olimpiadi a distanza di 20 anni già da quelle fatte a Torino. Prima infatti parlavamo con Ivan fuori onda e lo hai detto pure tu che ci sono delle opere in appena fuori Torino che sono abbandonate a se stesso. Scusami, penso ai trampolini di Cesana, se non sbaglio. No, ma a Torino abbiamo abbandonato i trampolini di Cesana, abbiamo abbandonato la pista di Bob, abbiamo abbandonato il villaggio olimpico di Bardonecchia come quello della città di Torino. Cioè, in Piemonte delle Olimpiadi, esclusa la città di Torino, in Piemonte delle Olimpiadi 2006 è rimasto poco nulla. Noi potevamo evitare di ospitare le Olimpiadi, però la bramosia della politica e delle federazioni sportive ci ha portato a questo. Ma perché abbiamo vinto le Olimpiadi noi? I referendum avevano bocciato le località del Canada, della Svizzera, dell'Austria, i referendum popolari. Noi non abbiamo voluto affrontare il referendum popolare e siamo rimasti in concorrenza solo con la Svezia. La Svezia era appena uscita da una gestione disastrosa dei mondiali di sci alpino del 2019, quindi non ha trovato i consensi adeguati. L'Italia, in assenza di altri concorrenti, è riuscita vincitrice, ma sicuramente non era e non lo è neanche oggi una nazione in grado di ospitare questi grandi eventi in modo sostenibile. Abbiamo perso una grande occasione e ad oggi ormai questa situazione è irrecuperabile, tanto che la Fondazione Milano Cortina e Simico stanno chiedendo al governo ulteriori finanziamenti per andare a pagare gli extra costi che si stanno sommando opera su opera. Sì, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza. Hai risposto a, come pensavamo, alle nostre domande. Per questo ti ringraziamo, ci hai illuminato in questa prima puntata. È vero, Ivan? Sì, almeno concordo su tutto. Reputo fondamentale quindi parlarne in questa maniera. Ecco, io vi ringrazio perché costruite un percorso di informazione fondamentale che ci aiuta a forare un muro di omertà, insomma, un po' alla volta, passo dopo passo, l'informazione corretta, io sono convinto, trionferà un po' ovunque. Ci vuole un po' di tempo, tanta fatica, ma un braccio aiuta l'altro, insomma, tutti insieme ce la facciamo a fare informazione corretta. Grazie Gigi. Grazie di cuore e ti auguriamo una buona serata. Bene, grazie a voi tutti e agli ascoltatori, grazie. Grazie, ciao a tutti e a tutte. Ciao.